In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Allora, buongiorno a tutti da Francesco Puglisi. Inizia anche oggi Slalom, una trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 13. Come già detto, oggi è Sant'Ambrogio, qui vicino a Cefalucci è proprio Sant'Ambrogio. Auguri a tutti coloro che si chiamano Ambrogio, io pensavo che non ce ne fosse, invece ho trovato sul nostro spazio Facebook un Ambrogio zito, che faccio gli auguri, eh? Allora, vi diamo qualche dritta per poter fare le vostre dediche, le vostre richieste, che sono il www.crmepiradio.it, il nostro sito, all'interno del quale, proprio nella home page, troverete una casella dove dovete scrivere il titolo della canzone, l'autore e il vostro indirizzo di posta elettronica. Inoltre avete a disposizione il nostro cellulare, che è il 335 56 37 251, che da lì potete mandare le vostre anche dediche richieste, e anche il numero di rete fissa, che è lo 0921 92 32 92. Questo è CRM, questo è Slam. Buon ascolto a tutti. Sola me ne vo per la città, passo tra la palla. Ti troverò, ti seguirò.

time, and time stands still before me. Frozen heat on the ladder of my life. It's much too late. Per quanto riguarda i provvedimenti sulla pensione, estensione a tutti dal 2012 dal sistema contributivo, ritiro a 66 anni per gli uomini e a 62 per le donne, parità uomo-donna a 66 già dal 2012. Abolizione di quote e finestre per le pensioni di anzianità, si uscirà in anticipo con 41 anni e un mese di contributi per le donne e 42 e un mese per gli uomini. Età agganciata alle aspettative di vita, annunciata per il 2012 la fine delle pensioni di anzianità. Contributo di solidarietà delle pensioni più ricche, finora niente adeguamento all'inflazione per quelle sopra i 936 euro. E quindi adesso abbiamo sentito questa bella canzone di George Michael ed Elton John con il titolo Don't Let the Sun Go Down. Allora, noi adesso vi diamo dei buoni consigli commerciali, poi ripartiremo con la musica e con le novità e con quello che stiamo parlando a proposito della manovra di Monti. Parleremo adesso del fisco, quello che sono le novità relative proprio a questo argomento che sta a cuore a tantissime persone. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. I see trees of green, red roses too, I see them blue. From me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Oh, I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Allora, aumento delle aliquote IVA come un altro dei provvedimenti fatto dal governo Monti, quindi del 10 e del 21% di 2 punti dal 1 ottobre 2012, e se non ci saranno gli introiti previsti dal riordino delle agevolazioni fiscali dal 1 gennaio 2014, altro incremento dello 0,5%, una tantum dell'1,5% sui capitali rientrati con lo scudo fiscale, anche quello del 2001, rialzo dell'addizionale regionale IRPEF dallo 0,9 all'1,23%, il bollo in conto titoli esteso a qualsiasi investimento finanziario, prelievo dello 0,1 per il 2012,

Allora, quindi arriva l'imposta municipale unica, la IMU. Si pagherà anche sulla prima casa, previsto un 60% di rivalutazione degli estimi catastali, aliquote dello 0,4 sulla prima casa e dello 0,76 per le altre. Questo per quanto riguarda il mattone, che noi siamo particolarmente legati, visto che al sud la cosa che facciamo maggiormente è prima la casa e poi tutto il resto. Ma poi parleremo, dopo i consigli commerciali, di benzina, che è un altro nodo importante, un punto molto indispensabile ormai per la vita di ognuno di noi. Tra curiosità, idee e buona musica. I'll take you to the candy shop. I'll let you eat the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have to tell you all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have your way, how do you want it? Gonna pack a thing up, shoot up a shop on it. Temperature rising to the next level. Dance floor packed it as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental. On the beach, in the park, whatever you're into. I got the majestic, I got the love. I got the hair of France, take a cupid house rub. I got you, wanna show me how you work it? Alright, get on top, bouncing around like a lowrider. I'm seasoned rep, but when it comes to this shit, work out this rep, and you can play with a stick. I'm trying to explain, baby, best way I can. I'm mad in your mouth, girl, not in your hands. I'll take you to the candy shop. I'll let you leave the lollipop. Go on, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have as many as you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Give it to me, baby, nice and slow. Climb on top of the ride like you're in the rodeo. You ain't never heard a sound like this before, cause I never put it down like this before. As soon as I come through the door, she's pulling on my zipper. It's like a race who can get undressed quick. How ironic is the watching the bond. I've been thinking about that ass after I'm gone. I touch the right spot at the right time. The lights on the lights, I feel like from behind. So seductive, you should see the way she whines. There's a slow-mo on the floor when we grind. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go on, girl, and don't you stop. Keep going until you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have to spend all you got. Keep going until you hit the spot. Whoa. Go what we do, and where we do, the things we do are just between me and you. Go what we do, the things we do are just between you. Allora, per quanto riguarda la manovra Monti relativa alla benzina, salgono subito le accise su benzina e diesel per un aumento rispettivamente di 8,2 centesimi, quindi per la benzina, di 11,2 centesimi al litro nel diesel. Nel caso del GPL l'aumento sarà di 2,6 centesimi al litro. Costi della politica, abolizione delle giunte provinciali e riduzione dei consiglieri a 10, calo dei membri delle autorità da 50 a 28, accorpamento di Impadep ed Enpals e nell'INPS. Quindi, vabbè, è un po' più leggerina questa. Per quanto riguarda invece la crescita, rafforzamento del fondo di garanzia per le imprese con un reddito di oltre 20 miliardi, ricostituzione dell'Istituto per il Commercio Estero, agevolazione fiscale per gli utili reinvestiti che rafforzano il capitale d'impresa quindi infrastrutture, sblocco di 3,8 miliardi per le opere strategiche. Questo è un po' quello che ieri il ministro, il premier Monti, ci ha comunicato a proposito della crescita, dei costi della politica, della benzina, della casa e così via. Poi parleremo di bonus IRAP per le donne e giovani e del contante per quanto riguarda i provvedimenti per quanto riguarda, diciamo, il contante vero e proprio. Quando uno deve pagare non può più dare dei contanti, ma deve obbligatoriamente dare degli assegni. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how with every piece of you, don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us, they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless, I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you have my heart inside. Allora, per quanto riguarda questa benedetta manovra Monti, il bonus IRAP per donne e giovani, le imprese quindi potranno dedurre 10.600 per ogni donna giovane sotto i 35 anni assunto a tempo indeterminato. Lo sconto sale a 15.200 nelle regioni del sud. Per quanto riguarda, che dicevo prima, la tracciabilità fiscale per i pagamenti oltre 1.000 euro, non si potrà quindi fare pagamenti superiori ai 500 euro in contanti. Le somme quindi eccedenti le persone dovranno dotarsi di un conto corrente che sarà aperto a loro a costi agevolati. Stop beating to my favorite song, and all the kids they dance. Salutiamo Naomi, Ornella e poi di Tiziana, ecco, che ci hanno richiesto questa canzone dei Goalplay. Vi ricordo che siete sulla radio giusta, CRM Happy Radio, la radio che oltre a sentire potete vedere tramite il nostro sito internet che è www.crmhappyradio.it, e come stanno facendo in tanti anche questa mattina, potete direttamente dal nostro sito fare le vostre dediche e le vostre richieste. Questa è Slano, una trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 13 circa. Poi passeremo il timone a tanti altri nostri colleghi, da Robby D'Antoni alle due simpatiche ragazze con Toc Toc. Continuiamo ancora con la musica. Questa è un'altra richiesta giunta al nostro sito internet. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Just fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float, dry house, wet clothes, loose change, banknotes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. They say class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, we're just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. The angel will die covered in white. Closed eyes and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. Class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe fly to the motherland or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. Tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Slalom. Flashback. Why live life from dreams?

d'inverno che ti fa male. Curati le ferite e poi qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica distrattamente un fiore, una domenica. E poi silenzi. E poi silenzi. Nei giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità, c'è rispetto, grande pulizia e quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti, e vestirti e pettinarti sì, e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa, quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie, siamo niente senza fantasie. Sorreggili, aiutali, ti prego non lasciarli cadere. Esili, fragili, non negargli un po' del tuo amore. Stelle che ora tacciono ma daranno un senso a quel cielo. Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. Mani che ora tremano perché il vento soffia più forte. Non lasciarli adesso, no, che non li sorprenda la morte. Siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica distrattamente un fiore, una domenica. E poi silenzi. E poi silenzi. Silenzi. Ahimè, anche le cose cambiano nel paese israeliano. Infatti per la prima volta un capo di Stato israeliano andrà in prigione a seguito di una condanna. Oggi infatti l'ex presidente Katassav è stato prelevato dalla polizia dalla sua casa di Malash e condotto in carcere, dove sconterà una pena di 7 anni. Continuiamo ancora con la musica, musica ancora italiana. Questa è un'altra richiesta giunta al nostro sito internet, ve lo ricordo, molto importante, perché da lì potete fare le vostre dediche e quindi richiedere anche la canzone più preferite, ed è www.crmhappyradio.it. Mi ritrovo qui su questo palcoscenico di nuovo io. Mi ritrovi qui perché il tuo appuntamento adesso è uguale al mio. Hai visto il giorno della mia partenza, nel mio ritorno c'è la tua poesia. Stare lontani è stata un'esperienza, comunque sia. Non ho mai smesso di amare te. Non ho mai tolto un pensiero a te, non ho mai smesso. Ho cercato la bellezza e l'ho trovata in fondo alla semplicità. Ho cercato il mio passato perché mi hanno detto che così si fa. Cerchiamo tutti la strada del bene e la troviamo nelle vite altrui. E questa notte adesso ci appartiene. Non ho mai smesso di amare te. sono così. Mi hai chiesto torna a me. Alla fine anche il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, si è convinto: l'albero di Natale di Piazza Venezia, ecologico e patriottico, era davvero brutto, tanto che in meno di 24 ore è stato rimosso ieri sera. Quindi le gru sono andate in azione e hanno tolto questo albero della discordia. Condannate a non lagnarsi mai, il maschio innamorato se lo fa, è un meccanismo inafferrabile, se solo invece di scarpe con i tacchi avessi un paio d'ali, io volerei lì da te, l'amore è un gioco di alchimie, l'amore non si chiede il perché, di fragili intese, di notte indifese, vissute con te, l'amore è un gioco di alchimie, l'amore non dà peso alle bugie, parole rubate dai grandi poeti solo per te, ognuno fa i suoi sbagli a modo suo. Salvare. cercare, non mi accorgevo di te, che mai eri pronta ad amare. Non ti curavi di me, perché già sapevi che io, se mi curavo di te, a farmi male eri ancora tu. Ecco, son pronto a sapere parlare, proprio adesso che voglio soltanto morire. Su quelle tue labbra c'è ancora posto per me, e come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me, sulla bocca e negli occhi, ed io mi accorgo di te, nelle tue mani si senti, avrò cura di te, ora che io so sentirti, avrai cura di me, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti. Allora, dalla Nigeria arriva una novità eccezionale che ci serve per due cose: per fare delle case ecologiche e per riciclare le bottiglie di plastica. Infatti si possono costruire delle case proprio con delle bottiglie di plastica. Sincera come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera, amore caro, amore bello, ti voglio. Ho visto cattedrali di luce nel cuore, troppo sole può fare morire, amore caro, amore bello, ti voglio. Che assomiglia a me, le mani le ha, oppure sì, e poi cosa? Io muoio, na na na, io se lascio te. Ma cosa accade? Tu non parli e non piangi stasera, come un bimbo mi guardi severa, e io soffro tanto, tanto, e tanto, ma tanto, ci credi? Eppure forse hai ragione, che strano. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. I'll still find something there with my love. It's understood. It's everywhere with my love. Viaggiando tra curiosità, idee e buona musica.

sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child that's got his own. Hey, hey. If God has plans for me, I hope it ain't written in stone. Hey, hey. Because I've been working, working myself. Siamo qui, non vi preoccupate, non ce ne siamo andati. Stiamo facendo delle manovre per migliorare ancora di più i collegamenti e gli interventi che esternamente ci raggiungono durante il corso della trasmissione. Vi ricordo che questa è Slalom, la rubrica musicale che vi tiene compagnia fino alle ore 13. E questa è CRM Happy Radio, la radio che potete sia sentire che vedere. Una bella botta quella che ha ricevuto domenica Alex Del Piero. È stato bendato con il sorriso e ha rassicurato i suoi fan tramite il web, proprio dichiarando che non era successo poi nulla di grave. Ben per lui, buon per lui comunque. Allora, continuiamo adesso consigli commerciali, poi ci ripresenteremo in studio e avremo in diretta telefonica il nostro caro amico poeta. Come già anticipato, è arrivato telefonicamente via telefono, grazie a Marcucci che ha creato, ha inventato questo mezzo di comunicazione, il nostro caro amico e poeta Michele Sarica. Buongiorno Michele, ben trovato anche questa mattina. Ecco, ben trovato a te, ben trovato a tutti i nostri amici di Radio CRM. Un attimino, vorrei salutare un amico mio che mi ha mandato qui un'email. Ciao, bella la luna che si vede. Complimenti all'amico mio. C'è bella la luna? Bella la luna, la mia luna che si vede. Abbiamo la tua luna? Sì. Scusami, non avevo capito il riferimento molto poetico. Allora, abbiamo messo la tua foto nel nostro collegamento, nel nostro sito, proprio a testimonianza del fatto che tu esisti, perché qualcuno mi ha detto, ma esiste questo Michele Sarica? Certo che ma esiste. Ma sì, che guarda, devi dire così, che esisto in carne ed ossa, più carne che ossa comunque. Oh. Buono anche per fare il brodo. Ok, ringraziamo, come si dice, gallina vecchia fa buon brodo. Ringraziamo innanzitutto Simone che è qui accanto a me, un tecnico dalle mani deliziose, veramente quello che riesce a fare con le mani. Lasciamo stare, vabbè. Salutalo anche da parte mia. Perché... E salutalo per me, una vecchia canzone di Raffaella Carrà. Qualche giorno lo proporremo, perché sai, io di tanto in tanto rispolvero delle vecchie canzoni di qualche anno fa. Stamattina, fra le altre cose, un amico nostro che all'interno di un bar ci disse: non proponete delle vecchie canzoni, ma noi li proponiamo. Sia io che Robby D'Antoni, fra le altre cose, siamo i prepulsori di questa tendenza a ripescare dei vecchi successi di qualche anno fa. Ma io credo che comunque il revival funzioni sempre. Il revival, come si chiamava tanto tempo fa? Appunto, poi c'era flashback, adesso è ritornato di moda nuovamente il flashback. Flashback, sì, certo. Molti ma termini. Io la domanda che mi pongo, scusami se ti interrompo. No, ma perché noi rispondo? Ad esempio, in televisione Carlo Conti ripropone da un sacco di anni i migliori anni. Appunto. E perché le canzoni attuali non sono importanti, non lasciano il segno come le canzoni degli anni 70-80? Dovremmo fare questa domanda, guarda, veramente a Simone, che lui è un po' più giovane di noi. Che io, credo che comunque forse anche questo, non lo voglio adesso, non posso stabilirlo così tu curre, no. Però dico una cosa: una volta le canzoni duravano di più, avevano una vita, diciamo, come le più lunga. Sì, sicuramente, ma questo comunque non è secondo me da attribuirsi esclusivamente alla bontà del testo, della musica, delle musiche, quanto i mezzi erano meno veloci di adesso, quindi avanti che arrivava un CD, il primo c'era il 45 giri, mi ricordo, nei paesi arrivava con una certa difficoltà. Poi insomma non era sempre che si trovavano i pezzi, la radio insomma c'era chi l'aveva, poi la televisione, certo, è venuta dopo, molti non l'avevamo in casa, quindi l'opera aveva molto tempo per essere gustata, viveva di più. Adesso si brucia molto velocemente perché i mezzi di comunicazione sono più veloci. Noi in una serata ascoltiamo un pezzo, lo ascoltiamo in 30 milioni di persone, 10 milioni, insomma, il pezzo nuovo, Sanremo. Certo, ad certo. Esempio, quindi subito in commercio, subito, si brucia poi prima subito vengono, per questo motivo, si brucia velocemente le tappe. Nuove proposte e quindi vanno un po' a coprire quella che può essere, insomma, succedono meccanismi chiaramente un po' che li detti il mercato, questo, insomma, però penso che anche oggi si facciano dei pezzi molto interessanti, molto belli, chiaramente col gusto tutto va un po'. Così va un po' a ricadere sul nostro gusto personale. Io amo, cioè, che so, Vola Palomba Bianca Vola, per dire, perché appartengo a quella generazione del ciao ciao bambina. La prossima volta ti farò sentire Baci di Remo Germani, che magari tu non la Te la ricordi questa canzone? No, non lo so, vabbè. Poi beh, Revo Germane, sì, certo, sì, lo ricordo. Sì, sì, sì. Non, adesso il titolo non mi dice niente, però sicuramente... Vabbè, la conosci, la ricorderai. Se me la fischietti un pochettino, magari, ecco, io posso... Allora, siamo alla vigilia della Madonna, io ti taglio perché sennò qua diventiamo prolissi e ci tagliano sempre più che mai. E hanno ragione. Già mi hanno tagliato i capelli e siamo arrivati a buon punto. Io domani devo andare a segare, a proposito. Senti, un'altra ti volevo chiedere questo. Per quanto concerne domani è la Madonna, la prima festività che un po' apre le danze o quantomeno apre le festività natalizie. Oggi un po' tutte le famiglie programmeranno, come ho fatto io, come sto facendo io e così via, la costruzione dell'albero di Natale e del presepe, che è un dei due simboli più importanti per il Natale. Chi è particolarmente cattolico, il presepe è sicuramente il simbolo maggiormente indicativo, gli altri anche, perché io credo che la luce sia la cosa importante. Il presepe, diciamo che ha un fascino particolare. Tutti e due hanno un fascino particolare. Diciamo che quello l'abbiamo un po' importato recentemente. Ma l'americana, noi importiamo dall'America un po' tutto. Tutte le cose più belle le importiamo noi, cioè quelli che loro se ne sbarazzano, cioè, a parte l'albero di Natale, tutti gli usi e costumi che loro hanno capito che non funzionano. Sì, poi ci riprendiamo. Poi ce li riprendiamo. E poi li ricicliamo così. Però vedi, l'albero di Natale sicuramente è bello, le luci, l'intermittenza, le palle colorate, le stelle, le cose. Però il presepe è quello che noi, il tradizionale, quello che ci portiamo dietro da millenni, insomma. E questo è bello fare il presepe, è bello vederlo. Cioè, quelle casettine, i pecorai, le caprette, ma guarda, hanno un fascino particolare. E poi oggi ho visto recentemente a Napoli e anche in altre parti d'Italia c'è un mercato interessantissimo, florissimo, floridissimo anche di questi tempi, dove la gente va a caccia di cose particolari, ci sono artisti straordinari. Oggi magari comprare di quei pezzi magari è un po' difficile perché costano, quindi comunque io sono per il presepe. Non disegniamo l'albero di Natale, a casa mia si fa sempre l'albero, ma il presepe è una cosa che mi affascina. E poi ora c'è ormai ci sono quelli moventi, quelli automatici, dove tu vedi il pescatore con la canna che va a pescare nei laghetti, e l'acqua che scorre, i mulini. Ha un fascino particolare, guarda, presepe. Dimmi tutto, ma è la Madonna, parliamo della Madonna. Allora, domani e stasera c'è la classica giocata a carte, non so, a Cefalù si gioca a carte, sì, annuisce con la testa, facendo sale e scende con la testa, quindi sì, si gioca anche a carte, così. Io non sono un patito di carte, non gioco, ahimè, a tombola perché i bambini mi coinvolgono. Volevo dirti una cosa, due cose. Primo, venerdì faremo un piccolo spazio dedicato ai bambini, perché non ci sono più radio che trasmettono canzoni ai bambini. Lo possiamo fare, Simone? Poi vediamo, Angelo, quello che ci dà. Bellissimo, interessante. Perché non c'è comunicazione, cioè, mentre prima c'erano, non so se ti ricordi, noi possiamo ricordarci benissimo, prima si facevano i programmi dedicati ai bambini, con le canzoni tipicamente Heidi, Capitan, il gatto con gli stivali e così via. Adesso niente, sono scomparsi, forse perché i bambini già sono cresciuti automaticamente. Anche quello, diciamo, è un po' il mercato. Ma che nasce che già sono. Che condiziona cresciuto. Anche la loro crescita, certo. Ma penso è questo. E poi un'altra cosa: noi la settimana scorsa tu hai recitato la poesia sui padri. La settimana scorsa, lunedì. Sì, dedicata ai genitori. Dedicata al perché padre. Se ne parla così poco dei padri. Sì, però io stamattina ho aperto la trasmissione con una notizia, quella di Erika. Erika è purtroppo la ragazza che la bambina, insieme al fidanzato ha ucciso la mamma e il fratellino. Il bambino, sì. Che è detto, stamattina ho detto, ci stiamo un po' troppo, le TV nazionali, i telegiornali nazionali e anche locali si stanno accanendo su questa notizia che sta uscendo dalla comunità, e questo e quell'altro. Lasciamolo in pace così. Però io ho sottolineato il papà che in questi anni, pur avendo perso la moglie e il figlio, non si è mai distaccato dalla figlia ed è un papà da elogiare. Questa era proprio una parentesi, perché noi abbiamo un po' dedicato quella poesia, abbiamo dedicato la poesia ai papà, però io credo che quella poesia in maniera particolare andrebbe dedicata a questo papà che va elogiato in questi anni. Ma sicuramente, sicuramente ha salvato o sta salvando sua figlia. Beh, io credo che ha salvato sicuramente sua figlia, che ha salvato, dai. Questo, cioè l'amore che aveva per il, sicuramente per la moglie, per il bambino che è stato ucciso, insomma, innocente, non c'entrava niente, anche la moglie è innocente, per carità, ma quel raptus non, per noi umani è incomprensibile. Beh, un raptus più da animale. Incomprensibile. Ecco. Incomprensibile. Ben ha detto l'altra sera in una trasmissione uno psicologo, un avvocato, che ha detto: ma la condanna giusta per questi ragazzi, ditemi voi quale sarebbe. Non si sa. Allora lasciamoli vivere, lasciamoli stare, perché i giudici che gli hanno dato questa condanna e che stanno facendo questo non lo fanno perché sono delle persone inumane, incompetenti o delle persone che amano l'orrido, sono persone che sagge, persone che, a parte che conoscono la legge, quindi la applicano in tutte le loro forme, in tutte le sue forme, però se hanno dato questa chance, questa possibilità a quei ragazzi, è perché hanno visto una luce in questi ragazzi, che si è rinnovata qualche cosa, ma lo dicono anche i psicologi che stanno vicino, questi ragazzi, anche non ricordo adesso il padre che sta vicino anche a loro, il padre confessore. Quindi se questi ragazzi hanno delle potenzialità di rivedersi e stanno ricominciando una nuova vita, ma tu immagini un pochettino queste ragazze quanto bisogno di serenità hanno. Indubbiamente. E che non hanno, che sicuramente non, questo loro grande rimorso, questa colpa non si cancellerà mai dalla loro coscienza. Quindi noi ci andiamo lì a mettere un po', come si dice, il chiodino nella piaga, a parlare, ma qui, ma qua, perché dovevano stare, gettare la chiave, ma quando mai? No, questo... Il carcere deve servire anche per un fatto di redenzione. Dovrebbe servire per redenzione. Nella nostra Costituzione questo, quindi, ora, santo Dio, lasciamoli stare in pace, hanno diritto a vivere. Noi non possiamo sapere quali meccanismi siano scattati in questi due ragazzini, no, che non è assolutamente né da elogiare, né tantomeno da condannare, è semplicemente da compatire. Questo è fatto. Allora io dico questo, come diceva questo avvocato, lasciamoli vivere. Questo padre, e io, ecco, a questi padri io, se mi permetti, darei semplicemente una medaglia al valore civile, una medaglia d'oro comunque, al valore civile. Questo dovrebbe fare la nostra società, riconoscere l'abnegazione e la capacità di amare di queste persone. Bene, ti ricordo l'appuntamento venerdì, prepara una poesia per i bambini che saranno ospiti sia qui in studio, porterò i miei due bambini se bellissimo possibile, e più vedremo se possiamo coinvolgere anche bambini esternamente, così parteciperemo a questa giornata, a questo angolo di slalom, in questa trasmissione dedicata proprio ai bambini. Io penso una poesia che un po' i bambini, più bambini sono il nostro futuro, e penso che loro, guarda, hanno delle potenzialità che noi nemmeno ci immaginiamo. Ma oggi cosa ci parlerai di poesia? Guarda, io oggi così di te, perché tu, se no, qua fino a stanotte faremo il non stop mute. Ti vedo vedere il non stop mute. Io pensavo che anche il discorso oggi potesse scivolare un pochettino sulle persone che noi ospitiamo, lo straniero, la gente che noi la pubblicità dell'IKEA, quando... il naso, la puzza sotto il naso, la pubblicità dell'IKEA che fanno in televisione, praticamente stanno arrivando e quindi preparano la casa. Esatto. Poi, zac! È bellissima questa pubblicità, devo dirmi, mi complimento con gli ideatori, gli ideatori. Allora io ti parlerò questa poesia di qualcosa di cui non abbiamo parlato, chiaramente, che è molto difficile, cioè, perché abbiamo parlato di tante cose. In definitiva si chiude così la poesia, che siamo tutti nella stessa storia, cioè che qualsiasi cosa succede all'altro capo del mondo, non è degli altri, mm-hmm. Non succede soltanto agli altri, succede a tutti, perché ci siamo resi conto e dobbiamo renderci conto che viviamo in un microcosmo, a bordo della stessa astronave, cioè la Terra, che cos'è? Un'astronave che ci porta in giro nello spazio, attorno a questo viaggio, io dico qua, disorganizzato, attorno all'universo, attorno al Sole, attorno ai nostri piccoli perché. Questo noi siamo, quindi dovremmo soltanto dire questo, ma come? Siamo tutti nella stessa astronave, nella stessa barca, come dice qualcuno, eppure ci tiriamo, siamo sempre lì a spararci, a guardarci in cagnesco, a fare delle recriminazioni inutili, quando invece dovremmo essere veramente come si spera un giorno diventare degli uomini e amarci come tali. Ma non voglio fare qua prediche No, sono delle parole sagge da una persona saggia. No, io guardo queste cose, le avverto. Aspettiamo la tua poesia, Michele. Esatto. Allora, la dedichiamo a tutte le persone che in questo momento si pongono delle domande e si chiedono se è giusto che la vita sia soltanto appannaggio, diciamo il benessere più che la vita, appannaggio di qualcuno, dei pochi a sfavore dei molti, o che non ci sia un fatto che riequilibri un po' le sorti dell'umanità, sia economicamente che spiritualmente. Okay. Straniero. Noi ci sentiamo poi venerdì più o meno allo stesso orario e dedicherai qualche poesia ai bambini. Con piacere sempre. Okay. Con buona Madonna a te e a tutta la tua famiglia. Grazie, ciao. Straniero. Tu dici che sei straniero, estraneo alla mia casa, al mio tempo, alle mie radici. Se tutto questo lo senti dentro il cuore, tu sei straniero, come lo sono io, quando mi eclisso nella quotidianità e lascio che agli altri il compito di vivere. Quando mi scordo che la vita è una e non c'è magia che ne offri un'altra. Quando incorono imperatore e innalzo barriere tra i miei occhi e il cuore. Sono straniero quando dimentico chi sono, quando dimentico dove sono nato, quando dimentico che i sogni non hanno confini né filo spinato. Noi, fratello, siamo stranieri tra le nostre mura, quando ci barrichiamo nel silenzio e lasciamo che il mondo marcisca tra i perché. Siamo stranieri quando dimentichiamo che la terra non appartiene solamente all'uomo, ma ad ogni essere che la chiama madre. Siamo tutti nella stessa storia. Buongiorno a tutti, ciao Francesco, un abbraccio a tutti i tuoi radio. Viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars

sono sempre più adagio e le tue braccia reggevano a stento il peso della valigia e sole, pioggia, neve e tempesta sulla valigia e nella tua testa e gambe per andare e bocca per baciare. Sole, pioggia, neve e tempesta sui tuoi capelli, su quello che hai visto e braccia per tenere e fianchi per ballare. Ho fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Ho un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle un po' più dure a morire e sole, pioggia, neve e tempesta sulla valigia e nella tua testa e gambe per andare e bocca per baciare. Sole, pioggia, neve e tempesta sui tuoi capelli, su quello che hai visto e braccia per tenere e fianchi per ballare. Slalom Flashback. Our dad would send us to our room. He'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran, though we knew it couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's arms, looking back it's so bizarre. Servant judge, a man so large, he barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, looking back it's so bizarre. Like a dream within a dream or somewhere in between. Like a drum of places come, like a father, like a son. You're gonna have to face the music. Oh yeah, face the music. la stagione invernale è decisamente stancante, soprattutto quando si avvicina il periodo natalizio. Infatti, tra pranzi, cenone, feste con amici e parenti, è davvero un momento intenso di ogni nostro anno. Ma niente paura, perché quest'anno, pensate un po', cari amici, vicini e lontani, ovunque voi siate, c'è un siero in grado di farci superare indenni queste settimane di preparazione alle feste di Natale e anche al Capodanno. È un siero colorato, di rosso, divertente da vedere, ma assolutamente importante da assumere per dare un nuovo sprint ai nostri giorni. Davvero una boccetta del miracolo per sopravvivere a questo periodo. Ma speriamo bene che questo accada. L'hanno provato nei criceti, i criceti sono andati bene. Questo, come si chiama? Questo test scientifico ha fatto l'elisir dei miracoli, e quindi proviamolo se siamo in grado di provarlo. Continuiamo con la musica. Questa è CRM Happy Radio e io sono Francesco Puglisi. Allora, se avete $60,000, circa €45,000, potete vivere l'esperienza di una crociera negli abissi del mare e rivivere il mito del Titanic. Infatti, il pacchetto tutto compreso è organizzato dalla Deep Ocean Expedition, società statunitense specializzata nel settore, che per il prossimo 2012 ha organizzato gite a 4.000 metri sotto il mare, quindi a 380 miglia dalla costa canadese di Terranova nell'oceano Atlantico. Quindi €45,000 è un po' spreconi, perché se consideriamo il fatto che se prendiamo anche un autobus di linea con €1,50 sia la stessa cosa, perché in questa navicella si va in due stretti senza bagno, e con €1,50 stretti nell'autobus senza poter far pipì e così via, potete avere la stessa sensazione. Non vedete il Titanic, ma vedete altre cose. there's something about Saturday night. You can't say what you won't do, 'cause you know that you're just mine. I'm alive this evening. It was love at first sight. Of this Saturday and every Saturday for the rest of my life. Drive-In è stato un programma che ha fatto la storia della televisione in Italia, forse il primo grande successo della televisione commerciale firmata Silvio Berlusconi, andata in onda per 6 anni dal 1983 al 1988, ha segnato il futuro della TV, subretti in abiti succinti, stacchetti con ragazze maggiorate, decine di comici lanciati e tormentoni a tutto spiano. I vari Zelig e Colorado sono stati, diciamo, il proseguo di quella che è stata un po' la preistoria del programma comico e del programma di intrattenimento serale. Ma che fine hanno fatto i personaggi? Che fine hanno fatto anche coloro che hanno inventato Drive-In? Antonio Ricci è e continua ad essere un creatore di programmi di enorme successo. Poi c'è da sottolineare Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo, Giorgio Falletti e Francesco Salvi. Want it all. Eccoci qui all'orario per avere la giusta indicazione su che cosa preparare, come ogni volta che noi ci incontriamo radiofonicamente abbiamo il piacere di avere ospite tra i nostri personaggi anche un buon cuoco, un buon chef che è Alessandro Refice, che direttamente dal suo posto di lavoro ci comunicherà anche oggi quale sarà il pranzo o qualcosa da preparare per queste giornate di festa. Ciao Alessandro. Malboro Tacci. Pronto, Alessandro? Alessandro? Stava dando qualche altra indicazione. Pronto? Dovrebbe essere aperto, credo. Pronto? Alessandro? Sì. Ok, abbiamo sentito Malboro Tacci, che fai? Fumi? No. Sì, questo brutto vizio al fumo. Brutto, sì. Allora, innanzitutto ti devo dare una bella novità. Abbiamo la tua foto inserita nel nostro sito, quindi quando noi parliamo compare la tua foto. Hai un bellissimo cavallo e tu che si vede e non si vede. Però io che ti conosco so che sei tu. Gli occhialini, il baffettino. Sì, anche. Una volta mi hai anche fotografato, ecco, ricordo. Sì. E quindi una bella giornata credo che sia in questo periodo, perché comunque hai anche un bel maglioncino, quindi tutto sommato è questo il periodo. Sì, esattamente. Allora, io dicevo questo, che ci preparerai qualcosa. Cosa ci preparerai? Io stamattina quando ci siamo incontrati tu mi hai accennato a un dolce, dico bene? Esattamente. Allora, parliamo, sentiamo. Allora, praticamente approfittando di questa festività, perché ovviamente oggi ci troviamo alla vigilia della festa dell'Immacolata, volevo proporre praticamente un dolce al cucchiaio. È molto semplice, è una panna cotta al profumo di bosco. La chiamiamo così perché andremo ad utilizzare i frutti di bosco. Ovviamente dopo un pasto molto abbondante, insomma, andare a mettere sopra anche quella che è la nostra tradizionale cassata, il panettone, cannoli vari e quant'altro, è sempre preferibile andare un attimino a fare un remoyage al nostro palato. Lo faremo oggi con una panna cotta che andremo a preparare con mezzo litro di panna liquida, ovviamente mezzo litro di latte, 8 fogli di colla di pesce che si trova praticamente sul mercato, è praticamente una gelatina. Mai sentita? La colla di pesce in pratica è un solidificante e viene praticamente utilizzato, se sciolto nell'acqua, come gelatina, quindi per andare a guarnire le torte di frutta, quando vedete che c'è tutta questa lucentezza sopra, viene eseguita praticamente o con la gelatina da sciogliere in crema o addirittura si fa con la colla di pesce, che io senza dubbio preferisco. Andiamo a mettere sul fuoco il mezzo litro di latte con il mezzo litro di panna e 300 g di zucchero. Quando porteremo il composto ad ebollizione metteremo una puntina di vaniglia, che sia in polvere, che sia in pistilli, non ha nessuna importanza. Poi andremo ad aggiungere praticamente gli 8 fogli di colla di pesce, faremo riposare e andremo a mettere in uno stampo. Ovviamente a parte andremo a sciogliere, che si trovano tranquillamente in commercio, 300 grammi di frutti di bosco anche surgelati in 200 grammi di zucchero. Faremo una salsa di frutti di bosco, in parole molto sintetiche, molto brevi. Andremo a sciogliere lo zucchero, metteremo questi frutti di bosco, andremo a premere il succo di un'arancia, la faremo raffreddare e poi praticamente quando porremo questo composto di cui parlavamo prima, quindi la panna cotta, dentro al frigorifero a 4 gradi centigradi per un paio d'ore, l'andremo a sformare in un piatto al contrario. Per ipotesi, avete idea della mezza boule? La boule di vetro, che sia di plastica, non ha nessuna importanza. Dopo praticamente andremo a capovolgere, quindi troveremo questa mezza sfera. Sopra andremo a mettere la salsa di frutti di bosco di cui parlavamo prima, eseguita con i 300 grammi di frutti di bosco surgelati, con i 200 grammi di zucchero e il succo di un'arancia, e andremo a mettere sopra la nostra panna cotta, l'andremo a tagliare in spicchi, servire, ed è veramente un dolce veramente veramente buono buono buono buono, soprattutto leggero. Bene, ecco. Alessandro, è eccezionale, io ho cercato di prendere nota, poi più tardino magari io sentendo la registrazione scriverò attentamente questa ricetta. Ti auguro un buon proseguo, noi ci sentiamo venerdì, tu sarai a venerdì, al lavoro. Allora. Ok, ti auguro buona Madonna, un riposati, saluto, divertiti, buon lavoro, tutto e buona vita soprattutto. Buona giornata e auguri a tutti. Ciao. Alessandro. Allora, noi siamo giunti al termine, io vi ricordo che venerdì saremo insieme sempre dalle 9.30 alle 13, sempre su CRM Happy Radio. Vi ricordo che questa trasmissione potete seguirla anche a partire dalle 2 di notte, salutiamo i nottambuli che seguono anche le trasmissioni durante la notte. E che venerdì prossimo, quindi dopo giorno 9, dalle 9.30 alle 13, parte del programma sarà dedicato ai bambini, quindi coloro che vogliono partecipare lo possono fare registrandosi tramite il nostro sito oppure telefonando direttamente qui in radio al 335 56 37 251 oppure allo 0921 92 32 92. Parleremo di che cosa? Faremo ascoltare della musica tipicamente da bambini, da Heidi al gatto con gli stivali, quello che verrà fuori. Potete fare le vostre dediche, le vostre richieste e saremo ben lieti di accontentarvi, come si diceva tanto tempo fa, ma noi lo riproponiamo perché vogliamo essere ancora più vicini a voi e più vicini ai vostri bambini. Del resto venerdì saranno a casa, è una giornata che fa ponte, a Palermo lo fanno, penso che anche qui a Cefalù le scuole faranno ponte. Vi auguro buona vita a tutti e quindi, se il buon Dio lo vorrà, e ci sentiremo venerdì prossimo, stessa radio, stessa frequenza. Da Francesco Puglisi a tutti.